Besalel fece l'arca di legno d'acacia, lunga 2 cubiti e mezzo, larga 1 cubito e mezzo e alta 1 cubito e mezzo. La ricoprì d'oro puro, dentro e fuori, e le fece intorno un bordo d'oro. Fuse per essa 4 anelli d'oro ai suoi 4 piedi, 2 anelli su un lato e 2 anelli sul suo secondo lato. Fece delle stanghe di legno d'acacia, le ricoprì d'oro e introdusse le stanghe negli anelli ai lati dell'arca per trasportare l'arca. Fece un propiziatorio d'oro puro lungo 2 cubiti e mezzo e largo 1 cubito e mezzo. Fece 2 cherubini d'oro massiccio, li fece alle 2 estremità del propiziatorio. Fece 1 cherubino da una parte e l'altro cherubino dall'altra parte del propiziatorio. Fece i cherubini sulle sue 2 estremità. I cherubini stendevano le ali verso l'alto, proteggendo con le loro ali il propiziatorio. Erano rivolti l'uno verso l'altro e le facce dei cherubini erano rivolte verso il propiziatorio. Fece una tavola in legno d'acacia lunga 2 cubiti, larga 1 cubito e alta 1 cubito e mezzo. La ricoprì d'oro puro e le fece intorno un bordo d'oro. Le fece intorno dei traversini di 1 palmo e fece un bordo d'oro intorno ai suoi traversini. Fuse per essa 4 anelli d'oro e pose gli anelli ai 4 angoli che sono ai suoi 4 piedi. Accanto ai traversini erano gli anelli per contenere le stanghe per sollevare la tavola. Fece le stanghe in legno d'acacia e le ricoprì d'oro per sollevare la tavola. Fece gli oggetti che erano sulla tavola d'oro puro, i suoi piatti, le sue coppe, le sue anfore e le sue tazze con cui si fanno le libazioni. Fece il candelabro d'oro puro. Lo fece d'oro massiccio, con il suo tronco e i suoi rami. Aveva i suoi calici, le sue corolle e i suoi fiori. 6 rami uscivano dai suoi lati, 3 rami da un lato del candelabro e 3 rami dall'altro lato. 3 calici in forma di mandorlo su un ramo con corolla e fiore e 3 calici in forma di mandorlo sull'altro ramo con corolla e fiore. Così per i 6 rami che uscivano dal candelabro. Il candelabro aveva 4 calici in forma di mandorlo con le loro corolle e i loro fiori. 1 corolla sotto 2 rami uscenti da esso, 1 corolla sotto gli altri 2 rami uscenti da esso e 1 corolla sotto gli ultimi 2 rami uscenti da esso. Così per i 6 rami che uscivano dal candelabro. Le sue corolle e i suoi rami formavano 1 tutt'uno massiccio d'oro puro. Fece le sue 7 lampade, i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere d'oro puro. Impiegò 1 talento d'oro puro per esso e per tutti i suoi oggetti. Fece un altare per far fumare l'incenso in legno d'acacia, lungo 1 cubito, largo 1 cubito, quadrato, alto 2 cubiti, munito dei suoi corni. Ricoprì d'oro puro il suo ripiano superiore, i suoi lati intorno e i suoi corni, e gli fece intorno una bordatura d'oro. Gli fece 2 anelli d'oro sotto la sua bordatura, sui 2 fianchi, cioè sui 2 lati opposti, per introdurvi le stanghe con le quali portarlo. Fece le stanghe in legno d'acacia e le ricoprì d'oro. Fece l'olio dell'unzione santa e l'incenso profumato, puro, opera di profumiere.